carabine. Tanto per rime in sto modo, in sto stato nervoso, meglio averla coppato. Dimostrazione, concentrazione, impegno, fammi un segno che ti inizio il disegno. Mi vedo calmo ad un palmo dalla schizofrenia, tutta colpa delle donne come turi, non duri con la mia, non curo la malattia, me la godo al 100% con l'apatia. Oh, una dose che mi spezza le gambe, qua la gente ti considera un grande, se ti fumi le canne o se ti scopri l'insegnante. Qua la gente parla ma straparra la maggior parte. Ehi, vorrei soldi per curare i fabbisogni, sia per ora giro il mondo in 80 sogni. Oh, il bisogno di capire la mia situazione, per ora la vivo senza una via. Mi presento anche senza il DJ, chiamo Camo, full clip man ci sei. C'è bisogno di pompare il tempo, e con Albe non può che essere tutto ok. Bene, wow, senza una crew è un culo, oh, che non si fanno i gay, sicuro. Sei un culo, fanculo. Albe dice Camo, fuori ora con No Fly, scaricatelo raga. Vieni, yeah. Yeah. Io vengo dal capoluogo, capochino stai da solo, che veniamo con Binello e vi cambiamo il gioco. Sì, di nuovo delle carte da giocarmi e cazzo, sì ci provo, i miei ragazzi non sono stati per un cazzo e lavoriamo sodo. Facci piano che Genova stanchi siamo e alzano le mani come quando segna Cassano. Full clip status, Albi ok, DJ Camo, la Genova col cuore in mano, canta sta un piano. Rime d'orgoglio, ecco il cazzo che mollo, in una mano stringo il micro e nell'altra tuo portafoglio. Barre da fantascienza quando scrivo mi alieno. E rappo con più coscienza di Zeno, caricatore pieno sulla bocca di tutti. Ripeto, siamo sulla bocca di tutti. Io Alberto, e se parli di me te la chiudo, ok? Tu col rap sei un culo come il titolo del tape. Conosco un solo modo ed è il mio. Sono ok come Aldo, ok? Che sono io, non sono il tuo dio, ma neanche tuo zio. Non reggo il tuo brio e non leggo la tua bio. Tiro giù con una mina ste mura, dalla prima stesura la mia rima è dura come la rozza. La mia penna non è quella di Mozza, posso scrivere a ruota della tua ruota che lozza. Qui ancora magnitudo, una scossa forte, che non escludo la vostra morte. Se non deludo, la musica mi è consorte. In testa un piano, so che il mio piano è forte. Suono più potente perché tu hai voglia di fare, ma io faccio veramente. Pronto al decollo, tipo tranzollo, e col cazzo che mollo, è il tuo cazzo che mollo. Mi presento anche senza il DJ, chiamo Camo, man ci sei, hey. C'è bisogno di pompare il tape, e con Albe non può che essere tutto ok. Bene, wow, senza una crew è un culo, oh, che non si fanno i gay, sicuro. Sei un culo, fanculo. Yeah, yeah, yeah, yeah.